alle 10. Avanti il break! Avanti il break! Chi è che parla? Ecco canale 10. Ecco canale 10. Ecco canale 10. Ecco canale 10. Avanti, chi è? Oh, dimmi! Ciao Antu, buonasera Luca. Oh, ciao Lu, buonasera. Dove sei Antu? Deposito sono. 9.5 qua. Preso, va bene. Tutto a posto? Stracco gioco, stracco. Mamma mia. A me la piazza l'antenna è nata la gobbicioria. Gana noi. Luca. Dov'è Antu? Lu, tu sei, non stai uscendo. Ehi, avanti. Come non sto uscendo? Adesso sì. Oggi ho visto un segnale più forte dello zoio, non eri tu. No, c'era un bip, non ero io. Oggi ho visto una piazza e l'antenna sul tetto, voglia neanche. L'antenna è presa. Ah, no, non qua, no. In piazza Bottego. Si avvagava, quando vuoi. No, a tra cinti, sì. Sì, sì, sì. Avvagava. E avà no, avà va giù altre cose, fare un capo. Più in là vediamo. Aspetta, ma questa che hai qua metti, quella quanto di giamma? La antenna è buona. Oh, antenna buona, proprio che buone. Ah, proprio cambi totalmente, eh. Ciappa. Oh, antenna buona, buona, buona. Cosa è che è? Sono distrutto, gioco stracco molto. Ma come stai lavorando anche oggi? Stasera? Per vedere se. Vabbè, se si vende, gatto. Oh, vabbè, che tu di no che travaglia la domenica. Così è un giramento di coglione, ma la domenica me ne voglio fare a casa. Vabbè, se fa la vita, si deve solo travagliare, io non lo so, fa la vita, si va, poi la domenica. Perché loro sono in tanti, e lo possono fare, io sono io. E poi ne hanno aperto un'altra adesso anche. E un dì? E via Maldella, ho sentito, una pubblicità. Sì, un altro che devo fare di là. Ma cos'è il gatto, ma lascia perdere. Secondo me va, capito? Secondo me va, poi giustamente i prezzi devono essere concorrenziali. Cazzo, non ce n'è per noi che ci siamo 50 anni nel settore. Cazzo, vedi cosa vuole fare la bugnetta? Sì, anche loro ci sono da un bene, già lo sai. Ma cos'è il gatto? Non so per i figli, ma la prova è andata al paro, dammi. Oh, canale 10. Faccio un sacco di anni. Avanti break. Avanti, chi è? Canale 10. Avanti. Oh, tu parla, ci sono da un sacco di anni, ci sono. Appunto per quello. Vedrai che va, magari ci ha studiato bene la zona prima. Canale di Masia era primo quello. Canale 10, ma se non entri non parli, scusa, entra. No, lo so, cioè, ma canale 10 non entra, beh. Si mette le coglioni. Beh, così è. Apri, era cosa di magia, era la rivendita di cassa. Quello c'è andato in pensione, ha lasciato l'acqua. Ha lasciato il per fare, però se non per travaglio ha pagato sta canta che sa niente, gatto, li voglio vedere io. Lo voglio vedere adesso che c'è caldo me. Cazzo, mi ha messo in un buco un sacco di soldi per questo giorno, un bel di dinamico. Lo so, boh, no. Ma qua non so chi c'è, una ragazza, non so se la moglie, boh. La cognata, e poi c'è la mamma, c'è la sentite, cambio. Già ancora ti sentiamo, parla però. Vabbè, bianco un attimo, lui. Sì, affai tu. Bianco, la corretta buena. Guardi, che tiene, yo tengo unos cuantos ya, no sé qué, no, tengo el metro, estoy bien, no, como tengo un 12 montado ahora mismo en este radio, más tengo unos cuantos vermitas por ahí, tengo unas cuantas cosas por ahí, ya tú sabes, brother, pues nada, cualquier cosa de gas y turner y cosas de esas, pues tú, cualquier cosa de esa me avisa, lo quiero, hierba, me dice. Facendosi il bagno, gente prendendosi il sole, perché si sta bene comunque, poi se l'acqua è calda è ancora meglio. Sì, già si sta bene. Diciamo, senti un po' di freschetto la mattina presto e la sera tardi, e poi per il resto va bene. Più tardi arriva questo freddo, meglio è. Oh, yeah, yeah. Le piogge ci vogliono, no? Il freddo non si ferma nulla. No, le piogge no, le piogge no. Già sono pieni di invasi, stanno straripando, la stanno scaricando anche al mare, un peccato. Ho capito, ma ci vogliono però, se no è un casino. È un casino. Ascolta a me, sopra il gasmetto, che intonaco ci vuole? Intonaco suo. Con la rettina, l'ideale, la prima passata con la rettina e poi gli dai la seconda passata, intonaco normalissimo, l'intopre. Perché ho visto che c'è anche bianco. Sì, ma sempre due mani comunque, ci vanno, capito? Due mani, lo lascia asciugare naturalmente, da retina, con la prima passata, poi lo lascia asciugare, quando è asciutto gli passi così la paletta americana per togliere un po' di cose, per rabbottarlo un po', e quelli della seconda mano, per far passare. Sì, sì. Allora voglio fare un bel lavoro, eh. E poi, non so, ero quasi quasi fuori per permettere una di quel collo isolante, come si chiama, nel polizio del spazio. Perché lì d'estate quella casetta si fa infuocata, si fa. E lì devi isolare il tetto. Il tetto bisogna isolare, sì. Sì, sì, sul tetto già ce lo metto a voglia. Ci metto quello da 8. Tanto no, già cosa va abbastanza poco. Blocca tutto bene, perché poi il vento, se no, mi spazza con tu, già hai visto, già avrazi. Ma cosa stai usando? Il microfono palmare? Sì, quello normale. Io l'ho attaccato così al volo, già era un giorno senza mettere nulla. Senti, ma qua la rete, per forza un rotolo grande bisogna prenderne, o ce n'è anche di meno. Torno subito. E allora sei ancora tutto quanto traslocando? Vabbè, su scena. Claudio, vabbè. Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola. Hola. Gianni. Ehi, avanti. Sto richiamando. Ero occupato con una campana, non potevo rispondere. Attenzione canale D. Ma non sto uscendo Gianni? Sì, stai uscendo, ci avevo un po' di macello a casa. Ah, no, io la campanta che sta andando, per quello senti un po' di casino magari. No, stavano parlando. Non sei uscito. Adesso guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso sì. E ho premuto male sicuramente, dai. Stavano parlando qui a casa, quindi non sentivo. Ah, ho capito. Andare. Scappa. E allora? Quindi sto stampando. Una cosa non bella, però devo stampare. È arrivata la luce, quindi devo stamparne la bolletta. Meda? Vabbè, 3,30. Ma quello che paghi sempre, di solito? No. Io me la seguo di meno. No, vabbè, l'altra volta era, quant'era lì? 300? Quant'era? 2,33. 100 in più praticamente. Vabbè. Era troppo anche l'altra però. Cavolo. Me la este. Adesso vediamo. Conviene farsi i pannelli, guarda, a un certo punto. No. Beh, io ho avuto un problema allo scaldino. Non vorrei provato a aggiustarlo, quindi dovrò comprarlo nuovo. Con quello risparmiavo, risparmiavo tantissimo. E vabbè, adesso vediamo cosa fare. Se non blocca questa roba, ne stanno approfittando troppo. Io gli avrei messo un blocco. E che blocco gli metti? Lo Stato può fare qualcosa, scusa, non è che può stare a far pagare la gente così, specialmente i pensionati che non ce la fa. Ah, è un casotto, è un casotto. Una signora gli è arrivata a 700 euro la luce e lei praticamente ne prende, mi pare, 800 di cose, deve pagarsi l'affitto e tutto quanto, e cosa fa? Non manca. Oh, fammi da vedere i pensionati, ma piacere. Pensionati, cos'è, un casino? Sì, 330 euro, confermato. Contro le 46 euro che pagavo, giusto per. Vabbè, ma tu in campagna forse consumi più luce? Sì, ma già, pagavo 46 euro ogni due mesi. 46 euro. Ma fammi da vedere i pensionati, però. Sta uscendo qualche uno importante, chi è? Io sto uscendo importante. Allora eri tu, sì. Sì, perché sto uscendo importante. Ehi, i pensionati quelli che fanno 500 euro al mese sono in grande difficoltà, è così, vabbè. Sì, ma qua, io pagavo 46 euro col bonus perché ho fatto la domanda, l'avevo l'ISE che raggiungevo, quindi pagavo 46 euro di ogni due mesi, adesso 330 euro, c'è un leggero aumento. E cosa ti ho detto stamattina? Da 120 ne pago 400, quindi. A proposito, sono te a capri 2, vai, ma te l'ho fatto l'ora di delle 2 e mezza, ero al campo. Capri 2? Lì sono tanto mosse. Vabbè, vai. Ti mando il Corixit che stavo facendo un paio di passaggi in 40 e in 80. Che c'è Gianni, riprendi tu, fai girare, io le mando il Corixit. Ehi, ciao Claudio. Avanti. A te che mi interessa? Dammi la frequenza che lo metto in ascolto. E così non lo trovo l'altro, vai. 3643, ma ho già finito, adesso mi sposto in 40 a vedere come caccia. Che c'è? C'è un conte. 3643. 7000. 3643. Ma quello non è 40 metri, no? Qui sono gli 80 da giudizio, in 40 ho già finito. Appunto, 3643. Aspetta. Non fuori da obiettivo. Ma dove sei? 80 metri. Passare del Gesù. Andava. Che sta c'è andando? La grande è andata a Gesù che fa il dentino a 80 metri. Arriva a 9.20 arriva qua. Cioè, questo che sta parlando c'ha 90 anni, C'ha 90 anni questo. Vabbè, riprendi Gianni, riprendi. Ascoltati, dimmi prima di la radio, va bene, regolare, a posto. Sappi che ti sto ricevendo con l'HR, con 5.500. Vabbè, ma non mi hai detto niente, voi la radio è quella, no? Sì, anche perché ti ho ascoltato con l'altro, Focano. Ah, sì, con il... vabbè. Avanti, Gianni, riprendi. Sì, vedi che questi sono i fatti dell'apparato, quindi sono liscio liscio, bravo. Sì, 9, picchi 9, 5, 6. Aspetta, posso anche aumentare appena con l'apparato, è tutto così. No, va bene, lascia stare così che va benissimo la grande. Ora, adesso questo da ora, 20 watt saranno, caspita, l'ho fatto Fabrizio. Ora. Come tocca Dio Fabri, non c'è niente da fare. Mi ha mandato il video di quella cosa che è arrivata stamattina. Già fatta, adesso non so se ci vediamo domani o lunedì. Ah, ok. Ia, vabbè. Guarda me lo tuo segnale ora, bravo. Aspetta, divino. Prova sul parlato, perché magari sul fischio va di più. Ora, uno, due, invece c'è fischiando, guarda. Sale a 40 watt. Fischiando vai da 9 a 9 e 15, sul parlato invece sei da 9 a 9 e 10. Ma figurati, cioè sto andando da intorno 10, 15, poi se vai a fischiare va anche 40 watt. Figurati, ma Gianni è sparito. Già sono qua. Ma tu sei agganciato? Io no. Che segno geniale che vai. Sono col Cobra, sono qua. Col Cobra, sì. Aspetta che provo a cambiare radio. A vedere se i segnali sono uguali, cazzo, c'è un incremento allucinante con questa. Ma perché con che radio sia adesso? Adesso sono con un'altra radio. Un'altra radio sempre della Kenwood. Però aspetta che commutti sul 430, vediamo. Prova, commutato, guarda a vedere. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto, uguale, sì, 9 più 20. Cavagava, stava bene. Ehi, io poc'anzi ero, aspetta un attimino, poc'anzi ero con... ero ancora a filare, No, sono uguali i segnali già. 9,20, non c'è problema. Cobra, vabbè sì, adesso mi stavo ricordando, c'è 30 watt con la radio, quindi stai andando benissimo. Bene, bene. Cos'hai detto oggi? E poco fa, in ascolto, ero con la filare, non era con la mando qua. Ah, ho capito, E io ti sto usando quella radio che ho preso stamattina, già l'hai vista, già ci capiamo. Ehi, la voglia. Va bene, no, stavo facendo una comparazione tra questa e il 430, ma i segnali sono uguali. Perfetta, perfetta. Pensavo che ci fosse un incremento diverso, invece Gianni sta usando il Cobra, quindi arriva così, dai. Andare. Già va lì. Vediamo le stazionarie. È perfetto anche di strumento di stazionare, va bene, riprendi già. Sì, ma che cos'è? 980? Come? Che radio è? Kenwood? Già un Kenwood, il più grande della Kenwood, non è Yaesu, il Kenwood, il più grande che c'è in circolazione. Fanno male gli occhiucci. Quindi va bene anche questo qua, dai, non sono solo i 140 eccetera eccetera, va bene anche questo. Vabbè, questo c'è la modifica per l'M, però non è che nasce così, c'è da aprirlo, capito? Non aprirlo, tirare come il 140, aprire, fare alcuni lavori, insomma, per poterlo fare andare in 27. Già l'ha visto Tico. L'ha visto Tico stamattina, cosa ha fatto Fabrizio? Sì. Va bene. E viaggia pure, viaggia alla grande. Batte, ne ha, c'ho tutto. Va bene, avanti già. Ehi, magari gli hanno messo qualche filtro, no? No, non c'è stato niente filtro. Questo nasce con delle strozzature per la M che bisogna toglierle per far sì che vada bene come deve andare, insomma, capito? Ah, capito, andare. No, ma già esce bene, va bene. Sì, nuovo di pacca, aperto stamattina. Anda bene. Adesso ne ho uno in più della famiglia. Non c'è uno in più, ne ho venduto due. Ho venduto un 430, ne avevo due. Un 430 e 140. Ma avevo già ordinato questo. E vabbè, dai. Ogni tanto si fanno questi cambi, queste cose, ma... Diciamo che andavano tutte belle le radio. Ah, posso aumentare. No, questo è... lo sto usando al 77, ma poco fa ero in 80 metri qua. Questo è MHF, lo devo usare solo in HF. Adesso lo sto solo provando per vedere se in AM è molto bello. Vabbè. Come stavo dicendo, ti, ma poi domani non ci dobbiamo andare con la manifestazione? No, io no. Domani capire gioca di nuovo, e quindi non posso. Non ho neanche avvisato, non l'ho avvisato che è andato. Cosa devo dire invece? Chi è qualche di voi, chi è qualche MC 60, che lo stavo cercando KP2, giusto per la cronaca. Io ce li ho, non li prendo più, sì. Grazie, ma mi fate pagare 90 euro l'uno. 90 euro l'uno, no, non li vendo più. Tanto è vero, il 140 l'ho venduto senza l'MC60 e ce l'ho trovato per i fatti suoi. No, no, grazie, costano troppo, sì. Costano troppo. Ne ho preso due, io la maschera, 180 euro più 20 euro di spedizione, 200 euro, 2 MC60, non conviene più darli, anche se lui adesso ha preso la radio e c'ha il microfono, cazzo, dove me l'attaccavo la radio, un microfono normale. vabbè, me l'ha chiesto così giusto per... io ce l'ho trovato su internet, ma ne volevo, mi sembra 120 euro, no, l'ho lasciato lì, a parte che no, non mi interessa a me, sinceramente. Ho dato la radio, davo sempre 70 euro, capito, così ne ho venduto tanti, 60, adesso basta, non vedo più perché mi sono lasciato, mi sono spaventato, li ho trovati nuovi, buoni, in bellissime condizioni, però cazzo, 90 euro l'uno più 10 spedizioni sono 100 euro, capito, quindi no, non fa più, quando lo vendi, cazzo, tanto vai di vendi 100 euro, non te lo compra nessuno, capito, perché tutti pensano che sia troppo, vai a comprarlo, vai, è già la biglioma, se no l'SM30, quello che ho sulla Icoma, cazzo, 150 euro, nuovo, 150 euro, l'MD100 non ne parliamo, 220 euro della IAS, cazzo, sono 90 anni impazziti per i microfoni, avanti Gianni. Ma io qualcuno l'ho visto anche 100 euro, sì. Qualcuno l'ho visto, perché c'era un periodo che avevo intenzione anche io di prendermi una di quelle radio, però qui ho cambiato idea, dai. Niente, sì, l'ho visto qualcuno 100 euro. Sì, sì, sì. Solo che, vabbè, sai, sono quelle cose che magari le vedi, le cerchi, poi non te ne frega niente, ci passi sopra e... Io ti ripeto, io non ho una grande scrivania, io ho tre radio, una a fianco all'altro e col carrellino che me lo giro, lo metto a fianco alla, praticamente a L, non rimane, a fianco alla, al PC, alla scrivania del PC, quindi non ho tanto posto per poter mettere microfoni, microfonini, no, non mi interessa, quindi ho il poco e il necessario, dai. E poi questi che mandano da fuori magari non funzionano bene, oppure già male la capsula, bisogna conoscere il microfono. Tanto è vero che io la volta che avevo 140 me l'ho comprato nuovo, l'ho pagato 170 euro, però era nuovo di zecca, di fatto. A comprare dalle ditte, io ho comprati dalla maschera e me li hanno dati garantiti già. Certo, se compri da un imbecille, magari mi ha bugato la capsula e ne ha messo un'altra, questi sono nuovi nuovi. Me li ha mandati dentro la scatola, capito? Poi l'ho comprato anche tramite un amico, me l'ha preso lui su internet, sempre dalla maschera, ho preso quello della Icom, l'SM20, dentro la scatola lo stesso 130 euro. Capito? Bisogna comprare dalle ditte specializzate, perché se vai a comprare dal privato ti fottono, capito? Sì, sì, è così, è vero. A me la volta che io ho comprato il 140 fuori alla Tecnocomunicazioni mi ha detto che era un po' consumato quello che c'era, dice conoscendoti già non te lo mando perché so già che non lo vuoi. No, infatti gli ho detto non lo voglio, mandamelo nuovo e mi ha scontato i soldi del microfono che ce l'ha già compreso con l'apparecchio, mi ha scontato 30 euro e via, basta. Non so, bisogna stare attenti perché poi gli M60 sono dei microfoni particolari, io ero nel 1987 chiuso questi microfoni e lo conosco molto bene. Qualche difettuccio ce l'ha, quindi se non è curato quel difetto lo porti appresso, te lo imbarcano, ti buono le batterie, dentro ti imbarcano così, e il circuito, capito, è bruciato, senza le batterie non funziona, con l'alimentazione diretta non funziona, capito? E quindi ti si imbarcano così, capito? Ti fanno vedere il video che funziona, però dentro tu non sai cosa ci hanno messo, tutto qua. Vabbè, avanti. Io guarda, quando ho preso questa radio non ho visto né, sinceramente né video né niente. Mi sono affidato a un radioamatore che ho conosciuto tramite un collegamento e ci siamo cambiati il numero di telefono e quant'altro, e gli ho detto che stavo cercando questa radio qua. Quindi già, diciamo così che potrebbe essere anche un po' fortuna, ecco, le cose, come quando compri la macchina a seconda mano. Se il tipo che te la vende è onesto, allora tu hai fatto l'affare. Se è disonesto, ciccia. Sì, sì, infatti è così. Ma chi è stato scaldato, non si fa di bruciare più, però infatti è quello. A me mi hanno bruciato 200 euro. Vabbè, sulle radio no, perlomeno. Comprandola da fuori non. Devi essere, insomma, devi cercare di avere fiducia uno con l'altro. Mi hanno fottuto 100 euro a me comprando le scarpe per i bambini, lì a Cacchio di Marcella. Praticamente questo sito era conveniente, avevo comprato 100 euro di scarpe, ma tre paia ne avevo prese perché erano convenienti, no? E poi l'indomani ho tolto il sito e quant'altro. Ho detto, beh, andrà bene, dai. Io sono andato anche dalla polizia postale, me l'hanno detto. Quelli fanno vita da nababbi, ma ci fanno tanti di quei soldi al giorno che fanno praticamente, vanno in alberghi di lusso, macchine di lusso, però lo sanno che prima o poi li mettiamo i ferri, capito? Sarà difficile trovare perché sono organizzazioni che si spostano da un paese all'altro. Praticamente ti manda il numero di telefono dall'Inghilterra, che ci sono le carte che tu puoi solo chiamare e poi basta. Una volta che chiami loro la distruggono, la carta ti dicono di mandare i soldi, lì tu mandi i soldi con West Union. Infatti io non farò mai più nulla perché non c'è tracciabilità. West Union mi ha fottito due detti. Sì, lo so, tanto è vero che chi fa acquisti si basa molto su PayPal, perché insomma c'è un briciolo di assicurazione di garanzia, quindi è così. Ma allora non ce n'era di questa roba, adesso c'è. E ti dirò di più, che non ha fottuto solo a me, ha fottuto anche a Coso, a Salvatore Branca, ci stavamo comprando due Galassi Saturneco nuovi di Zeca, avanti di magazzino, ne aveva due e due ne abbiamo ordinato, ne abbiamo mandati i soldi e non abbiamo mai ricevuto un capo. Beh, è un casino. Beh, bisogna stare un po' attenti, dai, diciamo che ci sono queste associazioni così a delinquere su internet pieno. E poi adesso per dire, ne ho visto una ieri, la Stille, una motosega Stille di quelle grandi là, e quella minimo non voglio esagerare, ma costerà intorno alle 1.500-1.700 euro, 46 euro. Questo secondo te cos'è? 46 euro non ti danno neanche la punta della lama. Oddio, guarda, ti dico la verità, non ci compro più su eBay, eppure Claudio non sa quanto ci compravo e cosa, ma ne butti di una volta e non mi butti di più, no. Se compro da ditte, che così sai dove trovarla la ditta, ma guarda che io non è che non sono stato attento, ho guardato, loro hanno praticamente camuffato tutto, era un West Seller di quelli che ci avevano il massimo delle stellette e c'era scritto venditori affidabili, la roba arriva, tutto loro ci hanno fatto il sito, ci hanno fatto tutto loro, sono specializzati in truffe, capito? Sì, lo so, però io di motosega bene o male qualche cosa me ne intendo, no? L'ultima che ho comprato l'ho pagata a 480 euro, ma l'ho presa che un similare della Olemac ha sostituito la Olemac. La Olemac è una marca, diciamo, non ottimale ma quasi, ok? Tra la Olemac e la Stille è la migliore. E ho guardato il prezzo, cioè ti ripeto, costerà intorno a 1.800-1.900 euro, anche 2.000 euro secondo che motore ha, e questo a darle a 46 euro ti dicevano che te la consegnavano in 3 giorni, voleva, cioè uno non si fa 2 più 2, e dice ma anche se è avanzo di magazzino, secondo te, ma poi in questo periodo che la legna si taglia per l'inverno, la gente se la compra se è conveniente, ma 46 euro vuol dire non ti danno neanche il tappino della benzina. Ah beh certo, e ti dirò di più, mi ha chiamato un mio amico da Roma, ah già, lo sai che ho fatto un affare, ho preso la macchina fotografica come la tua Canon che costa 1200 euro, io l'ho pagata 650 euro, e ho detto dimmi con che cosa lo devi pagare, l'hai già fatto, no lo sto facendo con West Seller, mo l'ha tutto, non li va più, gli ho detto che ti fregano, l'amico invece l'ha ordinata e gli hanno fregato 650 euro di colpo, così. Un casotto, no, vabbè, io guarda, sinceramente sono un po' scettico quando devo comprare qualcosa di interessante, quando invece magari devi comprare delle stupidaggini, allora te la rischi, non saranno quelle 10 euro che ti fanno povero, ma magari poi ti arriva anche, però adesso per dire ho comprato delle luci d'ingombro anteriori per la mansarda del camper, mi sono arrivate, non ho speso tanto, mi sembra ho speso 7 euro, sai che ha fatto 10 euro con il viaggio e tutto quanto, funzionano benissimo, però sono, non so come le volevo io, sono allungate anziché arrotonde, quindi le ho prese, ma giusto per così, per vedere se andavano bene, magari le compri di non di concorrente originale, vale e vale, ti fottono, perché voi costano un pacco di soldi. Ho capito, e vabbè, internet è una giungla, bisogna saperci anche giostrare. E addirittura quel poliziotto mi ha detto che hanno fregato anche un suo collega, figurati, quindi ti puoi immaginare, quando sono andato a fare la denuncia mi ha detto che hanno fregato anche il suo collega, dice quindi non l'ha mai fatta e basta, la frittata è fatta, tanto sono organizzazioni che si spostano da un posto all'altro, non li trovi mai. Lo so, non è neanche giusto, non è neanche giusto perché purtroppo tutti quanti lavorano e i soldi fanno fatica ad arrivare a fine mese, ci vorrebbe un pezzo di giustizia per tante cose, ma non è così. Kappa. Clave, tu? Una giubilata in Curaldi, il tuo nome ricordo il 10-2000, per carità, l'avevo comprato in provincia di Napoli. Cazzo, di tubo, un affare, bandino me l'aveva detto, ah, tu bello, guarda, c'ho la foto, lo prendo, prenditelo, vabbè, ce me lo prendo, ma tanto c'è stato il figlio di bagaccia, hanno lo stesso peso della radio, capito? Stesso peso della radio, l'ho messo dentro un po' di mattonelle, involte con la carta, tutto, bello, incartato, fatto la ricarica, capite? Ma non è andato, ma è fatto la guardante dei mattoni, capite? 600 euro persi, fatto denuncia, nulla, spariti, persi 600 euro, 4 anni fa, non lo ricordo come oggi. Tutti danno il biliardo, perché all'inizio magari non si è esperti, si pensa a tutti che sono come noi, onesti, invece c'è gente anche truffaldina. Veniamo a botta, cazzo, 600 euro, le balle me ne ho mangiato, cazzo, mai più, mai più, tutta la radio sempre da ditte specializzate, pure da gente che conoscevo, ho detto la Santa Caglia, Ristano, a Nuoro ne ho preso, l'Alghero, insomma, qua nel Sassari, sì, forse qualcuno, mi ricordo, e poi le compravo in fiera, andavo in fiera ma le compravo, però non la devo far adottare, non la devo far attenamente di Galaxy, tu, io e Salvatore Maestrale, cazzo, io contento, ora sì, ordiniamo, che ti avevano mandato un Galaxy, bastardi, ci avevano mandato la foto a me, a Gianni, nuovi, cazzo, arriva la radio, e secondo me era un mese a bagno, era tutta completamente rugginosa. E quella del negozio di fallimento, dimenticata di là, sì, che ti avevi comprato tutta la roba e quel negozio di fallimento non esisteva. Sì, cazzo, quella è un'altra cucciolata, sugar. Fallimento, ma io si fa il cazzo, ti devi dare, no, mi compri giù di più, lo blocco anche io. Sì, sì, e blocco in culo preso. Sono una brutta bastonata. Non esisteva nemmeno questo negozio, non si è formato i carabinieri del posto e tutto, non ce n'è. Ma colpiti, mai più. Mai, mi sono anche cancellato e beda tutto. Non ho più comprato niente, nulla. Capito che ti invogliava, stavo ore e ore sempre attaccato, guardando, facendo, compro, vendo, scambio. Cazzo, ma in cura di Gaggiubogliato, no, ma quella della 10.000 ti credi, mi è stata, sono stato una settimana piangendo, cazzo, 600 euro, facevo straordinari a 1.000 allora perché lavoravo, per comprare 1.000 radio, mia moglie mi lasciava tutti gli straordinari, tutte le cose, cazzo, neanche una bella, per carità, ma inculata però, poi bastardi, io quando è arrivato il corriere, la CDA, preso il pacco, altro io già ci ho preso, adesso coglione potevo, ma il danno era già fatto, era già pagato, potevo aprirlo davanti a lui perché era un amico, io ci ho lavorato le CDA per tanti anni, invece mi ha fatto a posto, sì, tu non deve essere questo, il peso già è quello lì più o meno, là. ciao, cazzo arrivo a casa, bello, cazzo, ci ho fatto tutto lungo, tutto pro, cazzo hanno un pacco, dovete avere 20 mattoni di braccaggio. Sì, che brutto, me. Allora, ultimamente ho preso l'iPhone 13 a Gabriele. Capo, questa roba non l'avevo mai, c'era qualche ritardo. Alla fine mi è arrivato un messaggio che era alla Bartolini. E gli ho detto, vabbè, allora facciamo una cosa. Gli ho detto, guarda che stasera me ne vado via prima, mettiamo qua alla Bartolini. Ma no, non c'è problema, di subito ti accompagno io, il mio principale. E però io andiamo assieme, dai. Sono uscito alle 4. Tra le 4 vado già una battuta, una cosa e l'altra, faccio vedere il biglietto, guarda, sì sì, è qua in sede, cercando, questa cosa qua non la provava mai, adesso anche queste qua sono di rampati. Una cosa e l'altra, dopo un po', ma io penso che è passato più di mezz'ora, e questo qua stava cercando, ho detto guarda, l'ho provato, vediamo, ma hai detto ma me lo puoi aprire, guarda, lo apro perché non vorrei che magari, ma l'ha aperto sul posto, ma ormai il danno era fatto con questa vicinanza, anche se c'era un qualcosa all'interno, sai, poi quando arrivano in sede e vedono un pacco così ormai, se è corriere, lo conoscono, quindi se te lo vogliono far salire, te lo fanno salire, non è che... Io ci ho lavorato in mezzo, ma che faranno un latte, queste cose le sappiamo. Aprono i pacchi, ma direttamente a quelli che ci lavorano, capito? Si accorgono, c'è materiale interessante, aprono il pacco, ne bucano la cosa da retto, però richiudono bene, con lo stesso coso, con le stesse etichette, cioè. Sono professionisti, non c'è niente da fare, dobbiamo stare ben attenti. Vai già. E comunque, a me un'altra volta mi è arrivato invece il gas che c'aveva anche la scheda dei 40 metri. Funzionava tutto, poi usciva con un'alternata, non sono mai riuscito a risolverlo, poi pensandoci bene potevo mettere un alimentatore switch di dentro e non me l'ha mai risolto, l'avevo portato quella persona che adesso non lavora più, dai, che fa la guardia giurata e non ha mai riuscito, mi ha fatto pagare la barca di soldi, mi ha cambiato bobina, ISO, guidato, da voi non è riuscito a aggiustare. Casino, non c'è niente onestà, non lo so, però è così, la realtà è quella. No, ragazzi, io vi saluto, me vado un po' a togliarmi il divano, ci sentiamo, sono le 8:20, accendo luci fuori e poi mi sdraio un po' al divano. Tenetevi conto, ciao Tino, ciao Gianni. Ciao Bla, ciao, buona sdraiata. E oggi c'è Tucci che Vales, dai. Sì, sì, infatti quello guardo io, sabato guardiamo sempre quello. Ieri c'era, mi stavo guardando l'altro, quello di Carlo Conti, come si chiama? E vabbè, quello lì, quello della imitazione, l'ha visto a Carleolio a cirillico cosa. E anche io mi guardo quei due programmi lì. A me piace più i programmi che i film, adesso i film non c'ho più pazienza a guardarli, mi trovo. Non ho più la volontà, prima mi piazzia, ne adesso mi addormento. Sai, caro di, in gara maieggio io, ma io qui addormenti, non ho riposato, troppo pranzo, niente. Vabbè dai, vi saluto. Ciao a tutti, ci aggiorniamo in settimana allora, ok, fai sapere. Eia, va bene, va bene. Ma io lo stesso, boh, forse non vorrei tappare, dai, sono una cosa dell'altra. Ho aperto, ho fatto la spesa, ho aperto il cofano della macchina, ho fatto in tempo a scaricare la spesa e c'è Ciccio addormentato dentro, boh. Non so come scendere dalla macchina, pensa che vuole solo portare in giro. Adesso lo convinco con qualche crocchetta, boh, vediamo. Storia che a cena fuori stasera. Se era già finito, chi vuole andare? I cani lì vogliono sempre andare. Vabbè dai. Ci sentiamo. Ciao a tutti e due, vai già. Ciao, ciao, tra. Dai. Riposati. Adesso fra poco vado anch'io, quindi faccio un paio di funghi che devo fare. E ti ribagniamo stasera. Eia, dai, allora ne approfitto anche io, dai, che così almeno ci siamo anche cosa qua e poi. Già, già sono qua in ascolto. Va bene, ciao fra. Ciao Gianni. Sono in codice, ciao, ciao. Ciao, ciao Tino, ciao, ci sentiamo, dai. Buona serata.